Mango Tart legge Mana Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 12. La sala in cui risiedeva Voldemort era umida e calda, come una gabbia di rettili, interrata da qualche parte. Le pareti che poteva vedere nell'oscurità erano di pietra, senza finestre. Erano lontani, nel sottosuolo. L'aria era densa e acida, stantia, putrida di magia nera. Hermione iniziò a sudare freddo e Malfoy la trascinò in avanti mentre lottava per fuggire. Non era una scelta consapevole. Ogni cellula del suo corpo le urlava di farlo. La mano di Malfoy su di lei era come una morsa. Non riusciva a liberarsi. Lui sembrava malapena accorgersi che si stesse contorcendo. «Mio signore», disse in tono rispettoso mentre si inchinava, «ho portato la sangue sporco come avete richiesto». Le sue parole erano scandite dai respiri balbettanti di Hermione in panico, che cercava di calmarsi. Un peso schiacciante si abbatté improvvisamente sulla sua schiena e la costrinse a postrarsi sul pavimento di pietra umida. Riusciva malapena a respirare sotto la pressione e lottò per spingere l'ossigeno in gola mentre la mascella le veniva schiacciata sul pavimento duro. Il suono le rimbombò nelle orecchie. «Oh sì», mormorò Voldemort in un sussurro carezzevole. «La Stroud ha detto che non è ancora incinta». Hermione alzò gli occhi in preda al panico per cercare di vedere da dove era bloccata a terra. Era seduto su un grande trono di pietra e la fissava indolentemente. Agitò una mano, coperta da squame opache. «Portatela qui!» ordinò. Il peso che schiacciava Hermione a terra cessò e due servi la tirarono su dal pavimento e la trascinarono sui gradini, costringendola a inginocchiarsi ai piedi di Voldemort. Lui non si mosse. Girò leggermente la testa e si pulì l'angolo della bocca. Hermione strinse gli occhi, ma lui entrò comunque nella sua mente. La sua presenza sembrava un ferro da stiro. La stava bruciando, rompendo. Urlò e urlò finché i polmoni e la gola non le cedettero. Poi si agitò in agonia. Non si era resa conto di quanto il suo shock nell'essere stata portata via dalla cella avesse reso tutto meno chiaro. Non ricordava che facesse così male. O forse Voldemort voleva solo punirla per non essere rimasta incinta. Era come se la sua coscienza stesse venendo scorticata. Non sapeva quanto sarebbe durata. Per sempre, forse. Sentiva che sarebbe morta più di una volta, nel mentre. Voldemort cercò di sfondare la magia intorno ai suoi ricordi bloccati e quando finalmente si arrese, procedette a vagliare tutti i suoi ricordi recenti. Il suo arrivo a Malfoy Manor, la prima volta che Malfoy la violentò nella sua stanza, e la seconda, e la terza, e la quarta, e la quinta, e la sesta. Le fece rivivere tutte e 10 le volte come se fosse curioso di vedere come lo faceva Malfoy, i suoi attacchi di panico, le sue conversazioni con lui, le limitate interazioni con Astoria, le sue domande, i suoi sospetti e i suoi schemi. Passava i mesi al setaccio con eccessiva crudeltà e curiosità. Le distrusse la mente fino a quando non rimase come monca. I muscoli ormai avevano sopportato troppo sforzo per funzionare. Infine si ritirò e le mani che stringevano Hermione la lasciarono cadere a terra, spasimante. «Conoscevi la sangue sporco a scuola?» lo sentì dire dopo un minuto. «E infatti, mio signore», disse Malfoy con un leggero tono di derisione, «una delle preferite di Potter». «Sogna la sua morte piuttosto disperatamente, più di quanto sogni persino la mia», disse Voldemort divertito. «Un segno che ha il senso di ciò che è possibile», disse Malfoy. Voldemort diede un colpo a Hermione con il piede. La sua vista continuava a vacillare e poi a svanire, a intermittenza, mentre cercava di mettere a fuoco. Non era semplice oscurità, era come se i suoi occhi non sapessero più vedere. «È intelligente. Confido che tu la stia tenendo bene in pugno, Ayriv». «Certo, mio signore. Sapete che riesco a fare tutto quello che mi dite di fare». «Infatti», disse Voldemort, È passato molto tempo da quando mi hai causato qualche delusione. Sono votato a voi, mio signore. Sei consapevole che è pericolosa, disse Voldemort, e Hermione sentì la magia trascinarla improvvisamente su dal pavimento e sospesa, mentre lui la fissava, il volto contorto dal disgusto. È in agguato. Cerca di trovare una debolezza da sfruttare. L'ho fatta ingabbiare per bene. Sapete che non vi deluderò, rispose Malfoy con rispetto. La voglio incinta, disse Voldemort con un sibilo deciso. Poi, come per un ripensamento, aggiunse: mi preoccupa che la dinastia dei Malfoy rimanga senza un erede. Certo, mio signore. Astoria ed io siamo stati attenti a seguire tutte le istruzioni della guaritrice Stroud, ripeté Malfoy. Molto bene, disse lui, sprofondando ulteriormente nel suo trono e tamponandosi di nuovo l'angolo della bocca. Riportala al Menor, allora. Malfoy si inchinò e poi afferrò Hermione per un braccio da dove pendeva, sospesa. La magia che la tratteneva cessò e lei gli cadde addosso. Lui fece una smorfia di evidente disgusto e procedette a trascinarla fuori dalla sala e lontano da quello stucchevole, opprimente nido di magia nera. Quando furono a metà di un corridoio, Malfoy la spinse contro un muro e la liberò. Lei scivolò e alzò le mani tremanti per asciugarsi le lacrime che le incrostavano le guance. Riusciva ancora malapena a vedere attraverso il dolore accecante nella sua mente. «Bevi questo!» ordinò lui, facendole scivolare in mano una fiala di una comune pozione antidolorifica. «Altrimenti sverrai quando mi smaterializzerò e il tempo di recupero si allungherà considerevolmente.» Lei la deglutì, abbastanza sicura che non l'avrebbe avvelenata. «Ti è mai successo?» si ritrovò a chiedere, quando il dolore cominciò a diminuire e poté parlare di nuovo, il volto di lui che ritornava lentamente a fuoco. Malfoy la guardò per un momento. «Più di una volta», disse. «Il mio addestramento è stato rigoroso.» Lei annuì. «È stato dopo il quinto anno?» chiese, guardandolo. Il dolore sembrò attenuarsi un po' mentre si concentrava sulla domanda. «Sì», rispose lui con un tono secco. «Tua zia?» mormorò lui in conferma, gli occhi stretti. Entrambi si stavano fissando intensamente. Lui era l'unica cosa che poteva vedere. «Non è l'unica cosa che hai imparato quell'estate», disse lei. Lui allargò progressivamente gli occhi. «Hai bisogno di una confessione di qualcosa? Devo raccontarti tutto quello che ho fatto?» chiese, la voce ridotta a uno strascico. Si avvicinò di più, in modo da sovrastarla. Lei si costrinse a non rimpicciolirsi e a non accucciarsi più di quanto non fosse già accasciata. Lo fissò negli occhi. Una domanda le salì alle labbra e sentì in qualche modo che era vitale che la facesse. «Vuoi farlo?» disse. Lui la fissò come se stesse considerando qualcosa. Poi i suoi occhi divennero incandescenti e fece un passo indietro. «Perché dovrei voler parlare con te di qualcosa, sangue sporco?» disse freddamente, afferrandola per un braccio e trascinandola lungo il corridoio fino al punto di smaterializzazione. Il cervello di Hermione era ancora provato. Quando Malfoy si smaterializzò di nuovo nella sua stanza, la sensazione di schiacciamento sulla testa la fece gridare e crollare, vomitando appena riapparve. Lui rimase in piedi rigidamente, fissandola e ripulendo il vomito dal pavimento mentre lei cercava di combattere le infinite ondate di nausea. «Vai a letto. Hai 2 giorni per riprenderti prima che mi aspetti che tu torni a camminare», disse lui prima di girarsi per andarsene. Lo avrebbe fulminato con lo sguardo se avesse potuto interrompere i conati di vomito compulsivi. Quando il suo corpo si convinse che non c'era più assolutamente nulla da espellere nel suo stomaco, strisciò nel letto e si cullò la testa tra le braccia. Non era sicura di quando fossero passati 2 giorni. Dormì e non avrebbe potuto dire se erano passate ore o giorni quando finalmente si svegliò senza emicrania. Mentre stava facendo colazione, Malfoy entrò a grandi passi. Lei lo guardò infastidita dal letto. «Saluti, sangue sporco», disse. Lei lo fissò con lieve sorpresa. «Come regalo di Natale a me stesso, ho deciso di porre fine al rituale settimanale di sostituirti le scarpe. Dovrebbero arrivare domani. Ti prego di non interpretarlo come un segno del mio affetto», disse e ridacchiò per un momento. Poi il suo viso divenne freddo mentre si avvicinava. «Sono passati 3 giorni e non hai lasciato la tua stanza. Spero che tu non abbia intenzione di causarmi fastidio». Si sentiva troppo male per avere paura di Malfoy. «Non ho modo di sapere che giorno è», disse con voce piatta. «Forse darmi un calendario potrebbe essere un ulteriore regalo per te». Lui la fissò. «Non ti è venuto in mente di chiedere a un elfo?» chiese dopo un momento. Hermione lo fissò e sentì lacrime di umiliazione indesiderate spuntarle agli angoli degli occhi. Contorse la bocca mentre lottava per non ringhiare o piangere. «Non posso parlare se non mi si parla», disse rigidamente. Malfoy si bloccò e rimase in silenzio per un tempo sorprendentemente lungo. Un'espressione indecifrabile gli attraversò il viso prima che sbattesse le palpebre e ridesse debolmente. «E io che pensavo fosse una cosa da elfi», disse con un sorrisetto. I suoi occhi sembravano ancora leggermente immobili. «Ne manderò uno più tardi. Vedremo se riesce a parlargli». Girò i tacchi e se ne andò senza un'altra parola. Quando finì il cibo, un elfo apparve per portare via i piatti. «Il padrone vuole sapere se hai bisogno di qualcosa», disse lui evitando il suo sguardo. «Un calendario che indichi la data, se è possibile, e un libro, su qualsiasi cosa». L'elfo domestico sembrava a disagio. «Posso procurare un calendario, ma la padrona ha detto che la sangue sporco non deve sporcare nessun libro dei Malfoy e che li ha fatti maledire in modo che bruciassero la sangue sporco». Hermione distolse lo sguardo, sentendosi stringere il petto. Si morse il labbro per non farlo tremare. Naturalmente, Malfoy o Astoria avrebbero fatto qualcosa di dispettoso come limitarle la lettura. «Allora non importa», disse a voce bassa. «Potrei portare il Daily Prophet, se lo vuole», le offrì l'elfo. «Sarebbe bello», disse Hermione, non volendo permettersi di sentirsi speranzosa al riguardo. «La sangue sporco vuole qualcos'altro?» Contorse la bocca. Quasi voleva chiedere all'elfo di chiamarla Hermione. Nessuno l'aveva più chiamata Hermione da quando... Era difficile da ricordare, ma non era sicura di voler sapere se l'elfo avesse istruzioni specifiche per chiamarla solo sangue sporco. Probabilmente le aveva. Era più facile non permettersi nemmeno di chiedere. «Nient'altro», disse, guardando fuori dalla finestra. L'elfo sparì. Quando tornò quel pomeriggio, tremante dalla sua passeggiata, sul muro era apparso un calendario e sul letto una copia del profeta. Era il 25 dicembre. Vederlo la lasciò congelata per diversi minuti. La copia del giornale confermava la data. Aveva paura di allungare la mano e toccarla, aspettandosi quasi che la bruciasse. Un dispetto in più. Esitante, vi appoggiò un dito. Non accadde nulla. Si sedette e lo lesse dall'inizio alla fine, assaporando le parole. Lettura le era mancata. L'ultima volta che aveva letto il profeta era andata così di fretta. Lo lesse lentamente una volta, e poi di nuovo, e ancora, ogni parola. Era per lo più spazzatura, propaganda sottilmente velata. Le notizie politiche erano quasi incomprensibili in mezzo a tutta quella confusione. Non aveva mai trovato interessante il Quidditch, ma lesse avidamente i resoconti delle partite, perché sembravano essere l'unica cosa di cui si parlava accuratamente. Le pagine di società continuavano a parlare di Astoria. Il suo nome era in ogni singolo pezzo. Lesse il foglio avanti e indietro, cercando qualsiasi schema o codice, per sicurezza. La mattina dopo trovò un paio di stivali nell'armadio, tra le sue scarpe. Il regalo di Malfoy. Consumava le suole delle sue fragili pantofole ogni pochi giorni e camminare nella neve le aveva fatto quasi gelare le dita dei piedi in diverse occasioni. Gli stivali erano di pelle di drago. Quando li indossò, si adattarono perfettamente a lei. Sapeva che c'erano degli incantesimi dentro per mantenere i piedi a una temperatura perfetta. Avrebbe potuto camminare per 100 miglia senza mai avere una vescica. Li fissò confusa. Erano troppo, come il mantello che aveva fornito. Forse Malfoy non sapeva nemmeno come comprare scarpe normali. dava semplicemente per scontato che tutti gli stivali fossero in pelle di drago con il controllo della temperatura e l'incantesimo per l'ammortizzazione. Trovarlo premuroso era sconcertante. Fissò gli stivali per diversi minuti ancora. Respinse l'idea. Se Astori avesse avuto un cagnolino, sarebbe stato sicuramente dotato di un collare gioiello. Lei era solo un surrogato di animale domestico ben calpestato e ammantato per lui da scopare. Probabilmente era preoccupato che, se fosse congelata, avrebbe dovuto interagire di nuovo con lei. E, dato che era presumibilmente destinata a partorire 3 figli prima di lasciare la tenuta, ci si aspettava che vivesse a Malfoy Manor per almeno altri 4 anni, forse 5 o 6. Considerando quanto spartano sembrava essere il Manor, Malfoy apparentemente aderiva alla filosofia del «compralo una volta, compralo per tutta la vita». Il fatto che avesse dovuto comprarle 20 paia di scarpe in 2 mesi probabilmente era qualcosa che trovava moralmente offensivo. Se gli stivali le fossero stati dati prima, avrebbe potuto sperare di usarli per fuggire, ma mentre si guardava i piedi non sentiva nemmeno il più debole guizzo di ottimismo. Anche se sarebbe stato bello non avere i piedi doloranti per ore ogni giorno. Le cose per cui si trovava ad essere grata erano davvero terrificanti. L'elfo apparve di nuovo per portarle via i piatti e le chiese se voleva qualcosa. «Posso tenere i giornali dopo averli letti?» chiese Hermione con cautela. La domanda non era apparentemente una di quelle a cui l'elfo era pronto a rispondere, mosse i piedi, come se ci stesse pensando. «Topsy pensa di sì, li butta soltanto dopo», disse l'elfo dopo alcuni minuti. «Perché la sangue sporco li vuole?» Hermione scrollò le spalle. «Non ho niente da fare. Avere della carta che potrei usare sarebbe bello. Immagino che se ti chiedessi un gomitolo di spago di filo rifiuteresti». L'elfo annuì, indicando che la supposizione di Hermione fosse esatta. «Topsy deve tenere pulita questa stanza, ma la sangue sporco può usare la carta finché non arriva la prossima», disse l'elfo. «È abbastanza giusto», disse Hermione in accordo, non che avesse scelta in materia. Lesse il quotidiano 12 volte prima di strapparlo in quadrati ordinati. Aveva passato la notte precedente a scorrere una lista di cose che pensava le fosse permesso avere. Aveva dato per scontato che non potesse avere ferri da maglia. Essere limitata con il filo era stata una supposizione, anche se sembrava discutibile l'idea che Malfoy temesse si sarebbe impiccata senza che un ritratto lo vedesse. Forse all'esterno. Avrebbe dovuto guardare con più attenzione gli alberi della tenuta. Mise da parte questi piani per pensarci in un secondo momento. Non stava pensando al suicidio. Non stava pensando a come le pulsava ancora la testa come se Voldemort le avesse arrecato un danno permanente alla mente. Non stava pensando a quanto le facessero male i suoni, o a come le sue mani avevano ricominciato a tremare a causa dell'orologio, o al fatto che il modo in cui Voldemort l'aveva costretta a rivivere lo stupro era stato ancora più traumatico delle volte in cui era successo. Non stava pensando a come non sarebbe mai riuscita a scappare. Non pensava a nulla, se non a strappare con cura il profeta con la costanza che le dita spastiche le permettevano. Quello era tutto. Era l'unica cosa a cui pensava. Una volta fatti un po' di quadrati, si mise a piegarli. Iniziò con gli origami a forma di gru. Non riusciva a ricordare esattamente dove avesse imparato a farle. Quell'abilità sembrava memoria muscolare. Creava le pieghe precise in un ordine specifico che non ricordava di aver memorizzato. Da suo padre, forse. Da qualcuno con dita agili e precise. Sul tavolo della cucina, che la guidava attraverso i passaggi. «Se pieghi 1000 gru in un anno, ottieni un desiderio», disse una voce maschile. «No, ottieni fortuna e felicità», rispose la voce di una donna dalla stanza accanto. «È la stessa cosa! Non proprio. Un desiderio presuppone che una persona sappia cos'è meglio per lei. La fortuna e la felicità lasciano che sia il destino a condurti nel posto giusto. Preferirei di gran lunga essere dotata di fortuna e felicità, piuttosto che di un singolo desiderio». «Ok, Confucio, mi rimetto alla tua superiore comprensione del mistico. Ora cerchi di provocarmi di proposito. Confondere il confucianesimo e la mitologia giapponese è un'offesa davanti agli dèi della pedagogia. Non ti permetterò di riempire la testa di nostra figlia con questa disinformazione. Forse lo faccio per incoraggiare il suo pensiero critico. Bene, mi scuso sinceramente per quanto orribilmente diseducata sarà ora. Mi assumo la piena responsabilità per quando questo la farà allontanare dalla società civile e la costringerà a vagare sulla terra come una nomade. In futuro mi assicurerò di fare prima un controllo incrociato di tutto quello che dico in biblioteca. Sì, grazie. Sarebbe fantastico. Il problema di sposare qualcuno che non ti annoia mai è che non lascia nemmeno un uomo in pace nell'insegnare a sua figlia il suo hobby preferito. Ecco, ti faccio vedere come si fanno gli origami tessellati. Tua madre non ne sa niente. Ho appena letto un articolo di un astrofisico che propone di usare questa tecnica per rimmagazzinare grandi membrane sui satelliti. Piegò origami a forma di gru fino a sentirsi polpastrelli ruvidi. Poi li dispose sul pavimento in modo che stessero in piedi, con le ali spiegate. Il giornale non era la carta ideale per gli origami, ma almeno aveva qualcosa da fare. Non aveva qualcosa da fare da tanto tempo. Era un peccato che la mitologia giapponese non fosse vera magia. Avrebbe piegato 100.000 gru se la cosa le avesse dato un po' di fortuna. Raccolse le gru e le appiattì tutte, lasciandole in una pila ordinata che gli elfi potessero buttare. Si chiese come erano i suoi genitori, che tipo di lavori facessero. Sperava che la sua incapacità di ricordarli significasse che erano al sicuro da qualche parte, che li avesse protetti prima dell'inizio della guerra. Sperava che non sapessero cosa ne era stato di lei.